America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. Una tarantella napoletana, beh, perché? Perché dedichiamo questa puntata agli italiani a New York, anzi gli italiani di New York, un libro di Maurizio Molinari edito dalla Terza, che è stato presentato pochi giorni fa proprio qui a New York, che sarà presentato in un giro accademico in 11 università americane a partire dalla seconda metà di ottobre, un libro che racconta quello che noi in passato abbiamo raccontato ma lo concretizza. Noi abbiamo raccontato l'idea di molti italiani che dall'Italia sognano di venire qua, il cosiddetto solo andata, e in questo libro Maurizio Molinari invece ci racconta di molti italiani che qua ci sono già venuti. E Maurizio è qui in studio con noi. Buongiorno Maurizio. Buongiorno. Ecco Maurizio, però devo subito dirti, non hai incluso la storia di Mario Platero, questa è una grave mancanza. La cosa più bella quando si fanno libri di questo genere è che appena si finisce si vuole ricominciare da capo, e quindi se questo è il suggerimento per la nuova edizione lo accolgo volentieri. No, non è un suggerimento, è un piccolo appunto, così, un piccolissimo appunto. Perché insomma tu stesso hai detto che la storia della IMC con questi ragazzi che vengono a lavorare per formarsi come giornalisti è una storia interessante. No, non c'è dubbio che la IMC è l'unica vera redazione in Nord America, intendendo per redazione non ristretta al corrispondente e ai suoi stretti collaboratori, ma una redazione vera che fa molteplici attività, che è un po' un polmone italiano in America. Questo bisogna renderne atto a chi la guida. Raccontaci delle tue esperienze con questi italiani, alcuni importanti come Cribbiore, che è stato chairman di Merrill Lynch. Ecco, raccontaci di Cribbiore, per esempio. La cosa interessante di Cribbiore è che lui somma la passione per l'alta finanza con quella per i libri antichi. È un po' questo il taglio del libro, cioè andare a vedere i personaggi da vicino, scoprire i dettagli che pochi conoscono e raccontare in questa maniera le diverse identità italiane di New York. Questa è una cosa unica di questa grande città, perché ci sono gli italiani che a casa loro parlano ancora in dialetto, ci sono gli italiani che parlano italiano esattamente come in Toscana, ci sono i manager di grande successo che trainano ciò che resta dell'economia americana, ci sono i cineasti, gli scultori, sono molteplici identità che vivono in tempi storici differenti, perché il tempo di Manhattan è quello a noi contemporaneo, a Brooklyn invece c'è ancora l'Italia delle province dove l'italiano non si parla, e questo è davvero le tanti tribù italiane di New York che escono fuori. E devo dire che a me quello che più mi ha colpito è la dimensione della fede. Sono stato una volta in una chiesa a Brooklyn, dove non ero mai stato, una chiesa completamente italiana, quando venne il cardinale Sepe, il cardinale di Napoli. Devo dire, fu un'esperienza commovente, proprio perché c'era questo spaccato di italiani fermi agli anni 70. Ci sono un po' queste stratificazioni, no? di diversi italiani. E nella fede chi hai trovato? Due personaggi straordinari. Uno si chiama Al Barozzi. Ha 70 anni, è un missionario, vive a Flushing, si è fatto le ossa e l'esperienza nella giungla dell'America Latina, e passa il giorno a camminare per strada, non usa il cellulare e incontra i fedeli uno a uno, rispondendo alle esigenze di tutti. Io gli ho chiesto perché cammina. Si chiama Al Barozzi, è originario di Trento, della provincia di Trento, e lui dice perché i missionari fanno questo, incontrano uno a uno, non ci sono le nuove comunicazioni, ma c'è il vecchio approccio. Ecco, diciamo scusa ai nostri ascoltatori, perché molti forse non lo sanno, che ormai a Little Italy, quello che era il vecchio quartiere italiano, gli italiani ce ne stanno pochissimi, ormai Chinatown ha invaso e sono emigrati in altri quartieri della città. Sì, la nuova vera Little Italy è Torre Avenue, si trova nel Bronx, quello sì, un vero polmone italiano. Bisogna andarci, a chi ci ascolta dobbiamo dirlo, il sabato, perché il sabato è il giorno nel quale i negozianti scendono per strada, gli italoamericani e non, che arrivano dagli altri quartieri, vanno a visitare, insomma quello è il momento. E si sentono per strada canzoni di Minoreitano, canzoni appunto degli anni 60. Sociologicamente dovremmo mandarci dei professori, perché è uno spicco d'Italia che oggi non esiste neanche più da noi nel nostro paese. E la cosa più interessante, c'è un ristorante salernitano che dentro ha affisso a tutte le pareti i manifesti delle ultime campagne elettorali in Italia. E qual è un altro personaggio di fede che ti ha colpito? Ronald Marino, prete di Bensonhurst, che si occupa dei clandestini italiani. Questa è una storia della quale nel nostro paese si parla poco. La sua valutazione è che ci sono fra 4.000 e 5.000 clandestini di nazionalità italiana, sono tutti giovani, fra i 20 e i 30 anni. Questo a New York o in America? Questo a New York. E lui si occupa di loro, parla con loro, in genere fanno i camerieri, i manovali, sono clandestini che arrivano con un normale visto turistico, quando il visto scade non lo rinnovano, restano qui perché quanto guadagnano a New York è superiore a quello che guadagnerebbero in Italia, però poi si vengono a creare situazioni molto difficili, perché uno ha un lutto in Italia e non può tornare, uno ha una gioia in Italia e non può partecipare. Breaking news. Aggiornamenti dalla Camera dei Deputati, dove alla prima chiama è stato raggiunto il numero legale. Hanno votato in 319, quindi iniziata la seconda chiama. A cambiare la situazione sono stati 5 deputati radicali che hanno deciso all'ultimo di partecipare alla votazione sulla fiducia nell'aula della Camera. I radicali, gli unici dell'opposizione a rispondere alla prima chiama, hanno votato, facendo così salire a 319 il numero dei votanti, numero dunque legale. Ora è iniziata la seconda chiama, poi ci sarà il responso sulla fiducia. Naturalmente vi terremo aggiornati. Molto duttili. Queste sono qualità che in una città come New York comportano avere successo, poter tentare di coronare i propri sogni e avere di fronte uno scenario e delle prospettive avvincenti. Ma c'è anche l'altro lato della medaglia, che cioè questa è una città che non fa sconti, è dura, spietata, non contano le amicizie, non contano i network, conta quello che fisicamente uno è capace di fare. Ecco Maurizio, un corollario di quello che stai dicendo, cioè quelli che sono venuti qua, molti di questi, vengono in America e poi ci restano per molti anni, per 20 anni, per 30 anni. È difficile per loro rientrare in Italia. Perché? Una delle caratteristiche che rendono l'America e soprattutto New York diversa da altri posti è il fatto che cambia in continuazione, e questo naturalmente dà a chi vi vive un'energia senza pari. Chiunque di noi, e tu Mario lo sai benissimo, sta via da New York per 10 giorni, sembra assolutamente un'eternità, perché in 10 giorni in America può succedere letteralmente di tutto. C'è qualcuno che mi ha detto: a New York ci si sente a casa, è vero? Sì, perché è una città che chiunque anche non c'è mai stato già la conosce. E quindi, se dobbiamo dare un messaggio ai nostri ascoltatori che ogni tanto sognano, pensano, tramano per cercare di venire in America, cosa gli diciamo? Buttatevi nell'avventura o state attenti? Accettate la sfida, fate attenzione, ma conservate dentro di voi sempre un grandissimo e forte amore per l'Italia. Perché ciò che distingue poi nella sfida quotidiana l'immigrato, di successo o no, è la forza nei suoi valori. La forza delle sue radici, la profondità di ciò in cui lui crede. Quindi più si ama l'Italia, più ci si sente italiani e più si ha possibilità di avere successo a New York. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive, sì, tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter, 24 America, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, abbiamo parlato di sogni, di sogno americano. E allora vi faccio ascoltare un grande classico americano in materia di sogni, di Judy Garland, Somewhere Over the Rainbow. Somewhere over the rainbow, bluebirds fly. Birds fly over the rainbow. Why then, oh why can't I? Da New York è tutto. Mario Pratero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going. America 24.